Sono contento di poter innanzitutto iniziare a mostrare questo film in Italia. In questi giorni è Scienzale, qui a Bologna in particolare, perché la Cineteca di Bologna è la distributrice anche del film in sala, quindi domani con questa proiezione all'interno del festival apriamo anche lo sfruttamento in sala qui a Bologna. E siccome la Cineteca tra l'altro è stato tra coloro che hanno creduto nel film prima ancora che esistesse, dal 2011, è molto emozionante riuscire a mostrarlo qua. E poi appunto vedendo anche la programmazione del festival, proprio il posto giusto per questo film, perché è un film che cerca di dare una voce a chi normalmente non ce l'ha così tanto, quindi diciamo che questo è proprio l'obiettivo del festival, quindi mi sento abbastanza a casa mia qui. Perché i diritti umani nel contesto italiano e mondiale in cui stiamo vivendo siano sempre, come dire, meno di moda, diciamo così. Per chi fa il tuo lavoro è più difficile farlo? No, è più utile però sicuramente, insomma. I diritti umani, se ci sono delle associazioni che si pongono come obiettivo di salvaguardarli, è perché non è automatico, è perché purtroppo questa cosa diventa un po' un optional. Lo è stata sempre, non è che adesso la situazione sia peggiore che 10 anni o ancora meno che 50 anni fa, e quindi bisogna semplicemente continuare a ricordare con film, libri, parole, esperienze, che tutti gli uomini hanno delle storie da raccontarci, tutti gli uomini hanno gli stessi diritti, e diritti non sono soltanto la sopravvivenza o la differenza dei diritti animali, non sono soltanto i diritti alla sopravvivenza quotidiana, ma sono i diritti all'espressione, agli spostamenti liberi nello spazio. Questo c'è scritto nella Convenzione di Ginevra, ma ogni volta bisogna ricordarlo a chi se lo dimentica.